Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, da Deborah Rosciani bentrovate ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio, un bel Salva Danaio quello di oggi. Sono giornate in cui ne leggiamo ogni giorno le iniziative di lotta e di contrasto all'evasione fiscale sembrano essere diventate temi da cavalcare con grande insistenza. Dopo il blitz di Cortina in particolare, che pure ha suscitato la perfida ma anche amara soddisfazione di coloro che si ritengono vessati, perché è chiaro che si senta così chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo, la questione è davvero sulla bocca di tutti, a volte in modo anche un po' improprio. Le tasse fanno discutere gli evasori, si diffondono le campagne di sensibilizzazione alla richiesta dello scontrino quando i negozianti non lo emettono, circolano opinioni sulla rete, sono molte le inchieste giornalistiche su questo argomento. Una di queste sarà pubblicata domani su Plus 24 delle Sole 24 Ore. Fra un po' ve ne anticiperemo i contenuti a Salva Danaio. Una delle immagini stereotipate più diffuse dell'evasore è quella del miliardario che porta i suoi capitali all'estero. Ne abbiamo parlato tante volte, in particolar modo tanto da quando con Monti è arrivata anche la nuova tassa sui capitali scudati in passato, ma anche quando è scoppiato il caso della carenza, a questo punto ritengo presunta, e poi vi dico perché, carenza di cassette in Svizzera. I furbi ci sono, vanno contrastati in tutti i modi, ma c'è anche chi legittimamente, per mettere al sicuro i propri risparmi, perché in questo momento non li sente completamente al riparo, pensa all'estero e le tasse è disposto a pagarle tutte con operazioni appunto di trasferimento di denaro o altri prodotti di risparmio appunto altrove. Domani Plus 24 pubblica una maxi copertina sui cittadini evasori, i loro trucchi, ma cerca anche di fornire informazioni utili e concrete a quei risparmiatori che si sentono più sicuri trasferendo parte del loro risparmio. Capiremo come aprire conti all'estero assolutamente in maniera regolare, senza correre rischi né per i propri soldi e senza fare magari in buona fede la parte dei disonesti. Stefano Elli, curatore di tutto questo lavoro per Plus 24 del Sole 24 Ore, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il dottor Salvatore Ricci, che è un ex dirigente della Banca d'Italia, consulente tecnico per alcune procure della Repubblica e forse uno dei massimi esperti italiani sui temi dell'antiriciclaggio. Dottor Ricci, buongiorno. Buongiorno. Grazie di nuovo e buon anno, soprattutto siamo ancora in tempo per augurare buon anno ai nostri ospiti. Facciamo anche ai nostri tempo. Ascoltatori. Ci sta raggiungendo l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria SPA, che è la società fiduciaria delle banche popolari. Anche l'avvocato Vedana è uno dei nostri esperti di riferimento per le questioni legate alla tassazione sui capitali scudati, alle operazioni appunto di rimpatrio dei capitali dall'estero e quanto altro. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà come sempre l'opportunità di intervenire in diretta, interagire con noi su questi argomenti. Potete anche scriverci alle 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Avete a disposizione anche il social network salvadanaio-radio24 per raggiungerci su Facebook, se volete anche lì animare la chiacchierata tra voi stessi sugli argomenti che scegliamo appunto di approfondire nella nostra trasmissione. Prima di partire diamo un'occhiata alla borsa, perché questa è una giornata da monitorare con attenzione. Adesso rivedo gli indici ripartire dopo il rallentamento di circa mezz'ora fa. Abbiamo Parigi in rialzo dell'1,24%, Francoforte più 0,51%, Londra più 0,22%, Milano più 0,80% grazie ai titoli bancari che da tre giorni stanno davvero segnando la riscossa. Hanno avuto giornate molto difficili in concomitanza con la comunicazione da parte di Unicredit delle condizioni per l'aumento di capitale che è in corso, e a quanto pare il mercato ha ripensato a queste condizioni, adesso sta ricominciando a comprare il titolo più 3%, il titolo appunto ha recuperato anche i 3 euro come prezzo. Il miglior titolo bancario è Mediobanca più 6%, UbiBanca più 4,66%, Diasorin in rialzo del 3,27%, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,36%, Intesa più 3%, Banco Popolare più 3%, più 2 punti, Mediaset e Fiat. Abbiamo sempre il solito raspino in gola che mi infastidisce da qualche giorno. I ribassi più accentuati: Tenaris meno 2, Ansaldo meno 1,27, Fiat Industrial in ribasso di un punto. L'altro però grande osservato speciale era oggi il Tesoro italiano, perché dopo le importanti aste di ieri che sono andate molto bene, e per i bot a scadenza appunto annuale c'è stato un forte ribasso dei rendimenti. Oggi abbiamo invece collocati sul mercato BTP a 3 anni. Il rendimento è sceso al 4,83% dal 5,62% di dicembre. Allora, cosa dice il mercato? Abbastanza soddisfatto. Lo spread continua a rimanere in discesa sotto i 500 punti base, ma è sui 470 punti, per cui forse ci si aspettava qualcosa di più, forse addirittura tassi dimezzati, esattamente come è successo nell'operazione di ieri. Di fatto la discesa è ricominciata e speriamo appunto che il mercato si accontenti almeno del fatto che il Tesoro è riuscito ad assegnare largamente tutti e 3 i miliardi in offerta questa mattina. Direi che possiamo lasciare anche la borsa, ricordando magari anche che Unipol ha deciso di lanciare l'offerta suprema fine che la finanziaria di controllo del gruppo Fondiari Assai, la compagnia di assicurazione della famiglia Ligresti. Se ne parlava da un po', questa mattina è stata comunicata al mercato questa lettera di intenti che sarebbe stata appunto siglata tra la compagnia bolognese e la famiglia Ligresti. Di fatto l'operazione appunto piace al mercato perché i titoli sono letteralmente in volo: Premafin finanziaria più 19%, Fondiari Assai più 10%, Milano Assicurazioni più 8,95%, e di conseguenza crescono anche tutti i titoli secondari, i titoli a risparmio, i titoli di risparmio non convertibili e quant'altro. E magari su questa operazione, con qualche dettaglio in più, torneremo nei prossimi giorni, proprio scegliendolo magari come tema di approfondimento per Salvadanaio. Andiamo al tema di oggi, che è molto vasto, si presterà sicuramente alle considerazioni più folcloristiche da parte vostra. Stefano Elli, ancora buongiorno. Intanto, buongiorno a voi. Ieri sera ti abbiamo visto a Servizio Pubblico, la trasmissione di Michele Santoro. So che ti sei fatto anche per raccontarlo a Servizio Pubblico, ma soprattutto per Plus 24. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, un giro in Svizzera, un giro a San Marino, pellegrinaggio nel quale negli ultimi mesi, per la verità, si sono cimentati anche molti altri colleghi, molti altri giornalisti, in particolare in Svizzera, per verificare se fosse vero che nelle banche svizzere non fosse più possibile aprire cassette di sicurezza per mettere diciamo al riparo il proprio risparmio. Poi magari le scelte per cui si aprono le cassette di sicurezza sono anche altre. Esatto. È ancora così? Da quello che ho potuto verificare io sul campo mi sembra proprio di no, perché sono andato in 5 banche e le Poste, il Finance, che è la posta svizzera, e in tutti e 5 mi è stato proposto di aprire delle cassette di sicurezza. Ma da con quanto capitale ti hai ripresentato, per capire se anche quello può essere una determinante? Perché se uno magari si presenta con 50.000 euro, dicono no, avevi qualcosa come 2-3 milioni di euro con te. No. Diciamo, la leggenda, come la chiamo io, era 150.000 euro da depositare, insomma. Quello che abbiamo cercato di fare in realtà con questo viaggio è stato cercare di documentare quello che davvero accade in questi mesi nelle piazze, che sono storicamente più battute dall'evasione, storicamente. Quindi Lugano per quello che riguarda il nord Italia, e poi San Marino invece per quello che riguarda il centro Italia e anche l'area, diciamo, adriatica, il versante adriatico. E abbiamo cercato di capire se è vero che ci sia una recrudescenza di questo fenomeno, e abbiamo anche individuato 4 tipologie di investitori / risparmiatori / evasori potenziali. Abbiamo determinato gli aggettivi, sì. Ecco, li abbiamo battezzati. Da una parte abbiamo visto la lepre, poi spieghiamo che cosa sono, poi il renitente al fisco, che è un'altra tipologia. Poi ci sono gli scudati pentiti, che sono molti, e infine ci sono i delinquenti abituali. Scudati pentiti perché pensavano di aver terminato tutta la loro vicenda, esatto, e invece adesso monti a ritorno. E l'emergenza in corso potrebbe fare sì che questi pacta che sono stati sottoscritti con lo Stato non vengano più osservati. Si era sollevata la discussione sulla legittimità o meno dell'applicazione di una nuova imposta, quella dell'1,5% sui capitali scudati in passato. Come si è conclusa, peraltro, Stefano? No, allora non si è conclusa in realtà, perché ci sono grosse perplessità in ordine alla costituzionalità di questo tipo di reintroduzione. Ciò nonostante, chi ha scudato evidentemente ha anche timori non soltanto di una recrudescenza nei confronti dei capitali che sono stati scudati, ma ha anche qualche timore relativo al mantenimento effettivo della privacy, che era uno dei vincoli che doveva essere originariamente alla base di questo scudo fiscale. Tra l'altro devo dire che questa nuova imposizione fiscale ha disturbato molto, questo lo abbiamo potuto dimostrare dalle nostre trasmissioni, soprattutto chi, per esempio, ce lo hanno raccontato raccontato appunto molti ascoltatori proprio a questo microfono, chi ad esempio aveva scudato capitali all'estero, che magari si era ritrovato come eredità, quindi dice: già io ho regolarizzato i miei rapporti con il fisco italiano dovendo sistemare una situazione che non mi sono cercato, e adesso che me la devono tassare di nuovo lo troviamo appunto ingiusto. Però immagino anche che questi casi siano, come dire, proprio la punta dell'iceberg, assolutamente limitati. Potremmo definirli super pentiti. Super pentiti, loro malgrado, per loro malgrado. Allora, tra l'altro, Stefano, prima di cominciare a coinvolgere il dottor Ricci, tra l'altro vedo fuori dalla porta anche Fabrizio Vedana, adesso lo facciamo anche entrare, così raccontiamo tutto quanto ai nostri ascoltatori quello che accade nel dietro le quinte di Salvadanaio, perché qualche volta capita anche che qualche ospite arrivi in ritardo, perché sono persone professioniste che ci danno la loro disponibilità e devono anche lavorare. Però so che sei riuscito anche in qualche maniera con le tue fonti, Stefano, a stimare, a quantificare, forse domani questo dato sarà anche su Plus 24, a quanto ammonta il capitale degli italiani conservato nelle banche svizzere oggi? Il capitale è difficile dirlo, quello che abbiamo possiamo dare sono i numeri dell'ultimo scudo. In realtà noi abbiamo verificato con l'ausilio delle tabelle di Banca d'Italia, del sistema elaborazioni statistiche di Banca d'Italia, che in Svizzera sia stato scudato qualcosa come 66 miliardi e 788 milioni di euro. Questo è un dato di partenza, chiaramente un dato parziale, anche perché i renitenti al fisco, cioè quelli che non hanno mai scudato né nella prima circostanza né nella seconda edizione né nella terza, sono molti, come abbiamo potuto verificare. Al secondo posto nella classifica, diciamo, dello scudo c'è Lussemburgo, al terzo posto curiosamente c'è San Marino. La medaglia di bronzo è San Marino, diciamo. Allora, dottor Ricci, faccio subito la mia prima domanda a lei. Come ha avuto modo di sentire, probabilmente Stefano Elli le avrà anticipato anche nei giorni scorsi, che avrebbe Plus 24 profilato, no? Come dire, la tipologia delle persone che cercano di portare delle attività finanziarie all'estero. Noi lo chiamiamo così un po' risparmio, ma chiaramente sappiamo che non c'è solo questo, visto che Stefano ci ha anche detto che tra le varie figure individuate c'è anche quello dello scudato pentito. Insomma, rispetto a tutte le manovre che sono state messe in campo di recente, oltre alla nuova tassazione sui capitali scudati in passato, adesso dal 1 gennaio c'è anche l'obbligo da parte degli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari riconducibili appunto ai contribuenti. Secondo lei, insomma, qual è il punto della situazione in cui in questo momento non facciamo altro che parlare di evasione fiscale? A quanto pare si stanno cercando di nuovo tutti gli escamotaggi possibili per evitare alla tassazione appunto italiana il nostro risparmio, e risparmio un po' in termini generali. Ma il discorso fiscale penso sia essenziale per capire il fenomeno della fuga dei capitali. Non solo il discorso fiscale, comunque c'è anche un discorso di criminalità organizzata, come c'è anche un discorso, forse fatto con più prudenza, ma altrettanto importante, di creare all'estero disponibilità finanziarie necessarie poi per pagare i cosiddetti compensi di mediazione. Non dimentichiamo che l'economia italiana è un'economia che vende tanto all'estero, che fa lavori all'estero e quant'altro, per cui necessita, seguendo peraltro una tradizione consolidata, necessita di risorse da pagare alla mediazione. Non si costruisce un ponte in Tanzania senza pagare una mediazione, non si costruisce una diga da un'altra parte senza pagare una mediazione. È il modo elegante per definire una tangente, dottor Ricci? Ma il modo più nobile. Però la normativa valutaria già 30 anni fa chiamava questi movimenti compensi di mediazione e prevedeva peraltro delle regole specifiche per pagare questi compensi. Poi è venuto fuori il discorso della tangente, che è qualcosa di diverso. Mentre la tangente è portata, diciamo così, è vicina al fenomeno della corruzione, il compenso di mediazione è un'abitudine ormai cristallizzata negli affari internazionali: chi ti procura l'affare, chi ti fa fare un lavoro deve essere compensato. Per cui, e il compenso non passa attraverso un bonifico, certo. Il denaro serve. Poi c'è il denaro della criminalità, che lo sappiamo benissimo, che prende certe strade ben definite. In sostanza, chi porta il denaro in Svizzera lo fa per due motivi: o perché vuole avere queste disponibilità finanziarie all'estero, o perché ha evaso il fisco e non vuole pagare, punto e basta, insomma è inutile che giriamo intorno al problema. Circa la quantità di denaro in Svizzera, probabilmente per l'esperienza che ho, ritengo che, tenuto conto di quelli che sono i valori dell'ultimo scudo, poi la realtà sia almeno il doppio, perché un buon 50% dei detentori di risorse non ha scudato e soprattutto non hanno scudato i grandi patrimoni. Sembrerà strano, ma per esperienza le posso dire che ci sono state un'infinità di piccoli scudi che partono dai 50 ai 300 mila euro, mentre sono pochissimi i grossi scudi che superano i 10 milioni di euro. Questa la dice lunga sul fenomeno: chi ha veramente grosse disponibilità non ha scudato, non scuda e non scuderà. Fabrizio Vedana, che sta consultando, prima di buttarlo in onda in passo ai nostri ascoltatori, i suoi ultimi appunti, condivide, avvocato, questa visione del dottor Ricci, che non abbiamo assolutamente alcun... perché non deve toccarlo il microfono, ecco perché fischiava. Non abbiamo assolutamente nessun tipo di dubbio rispetto a quello che ci stava dicendo. Il tema è che scuda naturalmente anche un po' per paura di essere in qualche maniera rintracciato chi ha patrimoni molto più modesti, anche se poi rispetto al piccolo risparmiatore che ci scrive, chi ha la possibilità di collocare attività finanziarie all'estero viene sempre comunque ritenuto un riccone e un furbo. Comunque, insomma, questa lettura che ci ha dato il dottor Ricci rispetto al fenomeno del quale stiamo parlando questa mattina, come la vede? Buongiorno Deborah, buongiorno agli altri ospiti, buongiorno ai radioascoltatori innanzitutto. Penso che in realtà lo scudo fiscale, almeno le quattro edizioni sin qui fatte di scudo fiscale dal 2001 al 2010, in realtà abbiano dato anche indicazioni ulteriori, e cioè che negli anni passati i motivi che hanno portato i contribuenti italiani, anche quelli che le tasse già le pagavano in Italia, a trasferire delle attività all'estero erano stati anche motivi assolutamente leciti. Motivi leciti quali ad esempio il fatto di voler diversificare la scelta dei gestori, quindi di portare all'estero e di scegliere un gestore estero perché piaceva di più il gestore estero, perché poteva fare degli investimenti in strumenti finanziari che la regolamentazione italiana a suo tempo non consentiva di fare, ad esempio in fondi non armonizzati, in fondi speculativi, cosa che oggi è possibile anche in Italia evidentemente. Altre motivazioni di quanti hanno fatto gli scudi e gli importi sono stati anche importanti, sono legati al fatto che erano clienti che avevano ereditato delle somme all'estero o avevano concluso delle operazioni commerciali all'estero ed erano rimaste all'estero queste somme. Ora è evidente che poi il confine tra illecito e l'illecito è sempre piuttosto labile. Credo che però forse non è completo dire che le motivazioni sono semplicemente di non voler pagare le imposte o di nascondere del denaro di provenienza necessariamente illecita. Spesso e volentieri il denaro, soprattutto direi quello scudato, ed è stato comunque importante il complessivo valore scudato nelle varie edizioni, era fonte normalmente di attività lecite ed era stato parcheggiato all'estero per motivazioni che non erano necessariamente illecite. Certo è che la manovra Monti ha riportato tutti coi piedi per terra e ha, credo, dato due messaggi forti. Da un lato, complicando parecchio la vita, devo dire, anche a noi intermediari in questa fase particolare in cui ci chiede di applicare delle imposte straordinarie sugli scudi, secondo me tutto sommato dicendo: la festa è finita, di scudi non ce ne saranno altri, tant'è che vi pongo delle imposte ulteriori, costituzionalmente o non legittime, questa è una valutazione che credo non debba essere fatta oggi su questo tavolo ma su altri tavoli. Dall'altro sta dicendo una cosa importante il decreto Monti, ci ha detto una cosa importante agli intermediari, ai professionisti e ai contribuenti: se hai i soldi all'estero e li vuoi portare lecitamente, saranno tassati alla stessa stregua di quelli che hai in Italia. Quindi toglie il famoso disallineamento che fino a poco tempo fa c'era tra l'intermediario italiano ed estero nel, tra virgolette, catturare la clientela italiana. Ci dobbiamo fermare per la nostra prima pausa, dopodiché daremo anche la parola ai nostri ascoltatori, che vedo già molto in fibrillazione su questo argomento. Poi vorrei sentire proprio Alberto Davarese, perché dice che dalla nostra presentazione abbiamo fatto passare, come tutta la collettività come una collettività di evasori. Alberto, non mi sembra di essere stata assolutamente così drastica. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi anticipiamo, come ci capita di fare spesso il venerdì, la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore in edicola domani. Domani si parla di capitale esportati all'estero, il grande traffico, chiamiamolo così, verso la Svizzera, che sempre c'è stato. Adesso si è cercato di invertire la direzione riportando di nuovo il denaro in Italia, in passato con le operazioni appunto di scudo fiscale, che adesso in qualche maniera chi lo ha fatto ha avuto anche una sorta di pentimento, perché come sapete con il decreto Salva Italia di Mario Monti questi capitali scudati sono stati sottoposti ad una nuova tassazione che peraltro abbiamo già detto prima non abbiamo ancora capito se verrà applicata o meno, perché c'è ancora in ballo la questione di costituzionalità, lo abbiamo già spiegato appunto nella prima parte della nostra trasmissione. Detto questo, chi porta il proprio denaro all'estero lo fa per quale motivo? Plus 24 ha tracciato una serie di profili per identificare queste persone e abbiamo individuato, magari Stefano Elli lo possiamo già dire, perché tra i profili molto schietti tracciati dal dottor Ricci, che è il nostro ospite di questa mattina, uno dei massimi esperti italiani appunto di antiriciclaggio, ex dirigente della Banca d'Italia, il dottor Salvatore Ricci, che ci ha detto che sono o persone appunto che chiaramente vadono completamente il fisco e quindi non vogliono sottoporre il proprio patrimonio, che è molto ingente, molto grande, la tassazione italiana, o comunque sono denari frutto di attività illecite che è chiaro che devono scomparire da ogni possibile radar italiano. Però c'è anche chi sottopone all'attenzione nostra, lo fanno molti ascoltatori, c'è chi ci dice si portano i soldi in Svizzera anche perché si ritengono più al sicuro che in Italia. E queste sono le famose lepri, quelle che noi abbiamo identificato così. Sono dei signori normalissimi che esportano capitali non tanto per paura del fisco, quanto per più timori più o meno giustificati sulla tenuta dell'Eurozona, sulla tenuta delle banche italiane, insomma quello che si chiama rischio paese normalmente. Si tratta di una tipologia di esportatori di valuta che non è molto diversa da quella che negli anni 70 esportava lire per la paura dell'inflazione a due cifre, oppure, se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui i sequestri di persona erano all'ordine del giorno, le autorità giudiziarie disponevano il sequestro dei beni. Evidentemente c'è una paura, c'è un timore forte, costoro si informano, e questi abbiamo visto sono la maggioranza, si informano per aprire un conto corrente in chiaro, quindi pagando le tasse al fisco italiano, pagando quindi compilando correttamente il quadro RV, il famoso quadro RW. E quindi non hanno, lo fanno oltretutto non in contanti, lo fanno disponendo un bonifico dalla propria banca di partenza dall'Italia verso la Svizzera, e direi che questa tipologia di investitore, questo di risparmiatore forse sarebbe più corretto definirlo, è la maggioranza di quelli che si stanno affacciando adesso al confine, il che dal punto di vista sociologico è anche più preoccupante. Beh, immagino, però è anche legittimo appunto, perché comunque anche da parte nostra, che soprattutto nelle scorse settimane non abbiamo fatto altro che parlare di questo spread, insieme all'evasione fiscale sono diventati due argomenti che mangiamo a colazione, pranzo e cena ormai, il tema dell'evasione fiscale dopo l'operazione di Cortina e il tema appunto dei tassi di rendimento dei nostri titoli di Stato che sono schizzati alle stelle. Magari per qualcuno è stato anche un po', come dire, legittimo, no? Che si preoccupasse e volesse quantomeno salvaguardare un po' del proprio risparmio, a parte fuggire, ecco. Capito Roberto? Lo dico al mio tecnico, che nei mesi scorsi mi ha tempestato di domande su questo, io mi sono anche un po' stupita, però sei un leprotto Roberto. Un'altra tipologia di investitori invece sono quelli che abbiamo battezzato i renitenti pervicacemente al fisco. E infatti, cioè, sono quelli che identifica il dottor Ricci, peraltro. Esattamente. Ecco. Costoro hanno una particolarità, non hanno aderito a nessuno degli scudi, hanno fatto come se nulla fosse, hanno tuttora disponibilità enormi in Svizzera e hanno il vantaggio che il bancario o il banchiere svizzero, il loro consulente, sa perfettamente che l'origine dei loro capitali è lecita o comunque lecita per la Svizzera, è quindi frutto di evasione fiscale in senso stretto, quindi non abbiamo qui a che fare con riciclaggio o con delitti di altro tipo, stiamo parlando di evasione fiscale. In quel caso l'accoglimento del nero da parte del bancario svizzero è abbastanza tollerato, ma se noi da clienti normali ci presentassimo di fronte a un bancario svizzero dicendo vogliamo depositare del nero, vedremmo subito una chiusura molto, molto concreta e molto netta, perché le disposizioni delle case madri evidentemente sono molto stringenti su questo profilo, sotto questo profilo. Allora, per farci entrare un po' meglio questi concetti in testa, direi di sentire, guarda, siccome l'ho presentato sentiamo subito Alberto, poi vorrei andare a Francesco da Milano, che invece ha l'obiettivo, non so entro quanto tempo, di aprire un conto in Svizzera. Tu dice addirittura sto andando a farlo, quindi voleva sapere qual è la procedura corretta. Alberto da Varese, buongiorno. Perché dice che abbiamo detto che siete tutti, che siamo tutti evasori? Noi siamo in quattro in macchina, tutte e quattro abbiamo capito dalla presentazione che chi porta i soldi in Svizzera è evasore. No, non ho detto questo. No, poi è stato chiarito, l'ultimo intervento è stato molto chiaro, ma il problema è un altro. Perché chiedete il motivo per cui la gente li porta in Svizzera? Guarda, io ho avuto un'eredità 4-5 anni fa abbastanza buona, ho messo i soldi in banca italiana. L'operatore titoli mi ha chiamato dicendo: guardi che lei ha tanta liquidità, quindi vediamo di investire di qua, di là, di su, di giù. Dopo due anni io ci ho perso. Ma lei dice che avendoli portati in Svizzera... Ma perché? Sono andata a vedere i titoli e le obbligazioni che mi ha preso, sono quelli della sua banca. Io vado in Svizzera, ho di fronte un professionista, non ho di fronte un ragazzino che lo viene cambiato ogni 2-3 mesi. Allora Alberto, vabbè, bisognerebbe anche vedere magari quanti giri si è fatto presso, come dire, intermediari, consulenti finanziari, per capire se c'era qualcuno che magari le poteva garantire un trattamento diverso del suo risparmio, ma questo è un altro discorso. Addirittura c'è una separazione così netta di giudizio nella professionalità dei consulenti svizzeri. Vedana, lei ha qualcosa da dire a questo proposito? Che cosa pensa della malumore del nostro ascoltatore che dice: comunque se io li avessi portati in Svizzera intanto avrei avuto una consulenza finanziaria diversa, molto più professionale. Beh, diciamo che dipende dai patrimoni di cui stiamo parlando. Anche in Italia può ricevere una consulenza assolutamente adeguata per patrimoni che superano certi importi. Per patrimoni molto piccoli, questo, per l'amor di Dio, succede in Italia come succede in Svizzera. Si mette al cuore in pace l'ascoltatore e quegli altri che ascoltano e che stanno decidendo di portare 20.000 euro in Svizzera. Ecco, anche con 20.000 euro c'è il rischio, andando in Svizzera, di non essere ricevuti in un salottino con bicchieri di vetro, ma di essere trattati come un cliente, come la stregua di una banca italiana. Attenzione, aggiungerei, se mi è consentito, all'elenco dei clienti a cui faceva riferimento Stefano Aile. È un elenco di quattro figure, ce ne avete solo due fino a questo momento, ma ne possiamo aggiungere. Cioè, sono anche le lepri intelligenti, le lepri sagge, quelle cioè che vogliono portare i soldi all'estero, li vogliono portare senza doversi poi preoccupare di dover fare loro il famoso quadro RV, di non doversi preoccupare di doverlo fare annualmente dichiarando le relative imposte e quant'altro. Possono ricorrere all'intervento di un intermediario italiano, tipicamente alla fiduciaria, che gli fa tutto nel rispetto di quelle che sono le regole di legge, quindi senza accettazione di contante, perché le fiduciarie non accettano il contante, visto che sono delle nuove soglie molto rigorose e quant'altro. Dottor Ricci, volevo naturalmente coinvolgere anche lei, perché gli ascoltatori si sono sentiti, almeno quello che abbiamo ascoltato, ma potrà bene immaginare appunto che le persone che ci chiamano non sono i grandi evasori o i grandi detentori di patrimoni molto imponenti, appunto, e li vogliono portare all'estero. Ci chiamano persone di profili molto più modesti, che invece vogliono proteggere il loro risparmio, che non si identificano esattamente nel quadro che lei ha molto correttamente, anche per il lavoro che svolge, che ha svolto, tracciato appunto in maniera molto, molto chiara. Ci sono però anche le lepri, come le definisce Stefano Elli, e che in questo periodo non ci stanno ad essere additati come evasori o persone appunto che vorrebbero sfuggire alle maglie del fisco. Ma direi che sono dei leprotti più che delle lepri, perché pensare che aprendo dei depositi in Svizzera, trasferendo le loro disponibilità in Svizzera, sia un buon investimento in questo momento, non è che sia così sicuro. L'investimento in Svizzera è costoso, gli intermediari svizzeri si fanno pagare tanto. Per quanto riguarda poi la semplice tenuta dei conti correnti, spesso l'interesse è negativo, per cui questo grosso affare non c'è. C'è un altro discorso di cui non si può fare a meno di far cenno, è che c'è una grossa sfiducia nell'euro e si pensa al franco svizzero come un bene rifugio. Ma anche questa considerazione va vista con attenzione. Al momento in cui, cosa abbastanza difficile a mio giudizio, dovesse saltare l'euro, non è che il franco svizzero se la cava così semplicemente, insomma, per cui l'eventuale venir meno della moneta unica porterà uno scompiglio tale nell'intera Europa, Svizzera compresa, che l'aver spostato le proprie risorse da Milano a Lugano non sarà stato certamente un'idea brillante, al di là di tutti i costi che l'operazione comporta. Dottor Ricci, gli evasori che continuano imperterriti a portare soldi fuori, lo fanno perché comunque non hanno intenzione in maniera assoluta di mettersi in regola appunto con il fisco italiano per tutta una serie di ragioni, oppure hanno con l'obiettivo fare altro a questo punto. Chi non ha mai pagato e ha sempre portato i soldi fuori, al momento in cui comincia a pagare diventa un soggetto attenzionabile. Ecco. È tutto qui. Al momento che diventa un soggetto attenzionabile si può risalire poi alla sua storia fiscale. Quindi non è che lo fa adesso temporaneamente poi con l'obiettivo di dire magari un domani governo mi riapre uno scudo. Ha fatto una scelta forte e una scelta spesso definitiva. Per cui pensare che domani possa riportare indietro il proprio denaro è abbastanza difficile. Nelle categorie di Elli, che è sempre tanto bravo, io mi complimento con lui perché leggo con affetto i suoi articoli, c'è una cosina che manca, l'evasione di quello che è il settore produttivo italiano. C'è una parte del settore produttivo, una parte dell'impresa che evade, e evade con strumenti molto più sofisticati di quelli che fino adesso si sono esaminati. Ci sono alcune aziende italiane che hanno creato a Lugano delle holding sulle quali, che poi costituiscono nella sostanza la cassaforte, il punto di raccolta e distribuzione delle risorse finanziarie di queste aziende, che sono sempre ufficiali, che sono sempre canali bancari, per carità, che però una volta arrivati a Lugano poi sfuggono di fatti a quella che è il fisco italiano. Quindi la holding è regolare, ma il contenuto stanno fiorendo a Lugano una serie di holding che fanno riferimento a medie e anche robuste aziende del centro nord. Allora, sono anche molto incuriosita di molte domande che ci arrivano al 349-238-6666, di molti ascoltatori che molto banalmente chiedono: è possibile portare all'estero quattrini legalmente per un privato? Allora, se non fosse possibile la nostra economia sarebbe ferma, non sarebbe un'economia globalizzata, ognuno se ne starebbe rinchiuso dentro la propria abitazione. Certo che è possibile, ci mancherebbe altro, molti scelgono di diversificare i propri risparmi, i propri investimenti, proprio perché si può fare secondo procedure assolutamente corrette, legali. Quello di cui parliamo stamattina è diverso, parliamo di un fenomeno molto più esteso che ha reso necessarie operazioni di scudo fiscale ripetute nell'anno, per cui perché le famiglie italiane, i risparmiatori italiani, le aziende italiane decidono di portare patrimoni fuori? Il motivo è perché chiaramente si cerca di sfuggire dalle maglie del fisco, che è molto aspro in Italia, tassazione molto alta. Ci sono poi denari frutto di attività assolutamente illecite, e quelle figuriamoci se ovviamente vogliono incappare nelle maglie del fisco. C'è chi si è spaventato molto per la crisi italiana degli ultimi mesi e che ha voluto portare fuori il proprio risparmio perché ritiene in questa maniera di poterlo proteggere al meglio. Francesco da Milano, buongiorno, poi rispondiamo anche, lo vuole fare Stefano, anche alle perplessità sollevate da Alberto in precedenza. Francesco, buongiorno. Buongiorno, io oggi pomeriggio volevo andare a Chiasso per appunto iniziare a informarmi, perché volevo portare i miei risparmi in posta. Mi hanno detto che in posta svizzera c'è la possibilità di depositare, appunto perché ho paura di fare la fine dell'Argentina. Volevo sapere che tasse devo pagare, perché io sono un lavoratore dipendente, quindi sono soldi assolutamente puliti. Certo, Francesco, la ringrazio. Allora, abbiamo un leprottino adesso, senza offendere Francesco naturalmente, però è quella tipologia identificata da Stefano Elli in questa lista che farà domani. Tra l'altro abbiamo detto solo due tipi, poi ci devi anche alzare il velo sugli altri. Avvocato Vedana, chiedo il suo aiuto. Insomma, un lavoratore dipendente, per cui un profilo assolutamente modesto, che magari vorrà accreditare la sua pensione su un conto corrente della posta aprendo a Chiasso, può farlo? Assolutamente sì, può farlo, ha diverse modalità per farlo: o lo fa direttamente, quindi fa il trasferimento dal suo attuale conto corrente sul nuovo conto corrente o conto postale, questo modo dovrà sicuramente fare l'RV, compilare una delle sezioni dell'RV, la 2 e la 3, laddove il saldo a fine anno sia superiore a 10.000 euro. Dovrà ricordarsi che dovrà pagare anche un bollo su queste attività che dichiarerà nel suo RV, un bollo introdotto dal decreto Monti che è pari allo 0,10, quindi sostanzialmente analogo a quello che pagherebbe in Italia se avesse quei 10.000 euro su un deposito titoli italiano. Quindi nessuna difficoltà nel farlo. Come farlo? Se vuole fare il trasporto cosiddetto al seguito, quindi non vuole farlo tramite canalizzazione bancaria, quindi dal suo conto corrente italiano far arrivare i soldi sul conto postale svizzero, lo può fare anche con trasporto al seguito del denaro, quindi fino a 10.000 euro non deve dichiarare nulla in dogana, sopra 10.000 euro deve bussare alla porta della dogana, fare una dichiarazione di trasporto al seguito di denaro per importo superiore a 10.000 euro. Allora, sì, Stefano. No, aggiungerei due consigli toponomastici. Allora, siccome sono andato io alle poste di finance di Chiasso, è in Piazza Indipendenza. Ecco, quindi abbiamo dato la consulenza completa. Ci sono due persone che sono esplicitamente dedicate a seguire i clienti, due italiani signore molto che gentili, andando, una a un banco. Eviti di prendere il numero e faccia la coda direttamente al centro, ci sono due scrivanie, una verso l'esterno e una verso l'interno, e queste signore sono gentilissime e sono disponibili. Che non dicano allora, come ha fatto Alberto, che i consulenti italiani non sono gentili, perché tu sei stato perfetto. Rispetto a quello che ha detto invece prima Alberto da Varese, volevi aggiungere qualcos'altro? Ecco, sull'affidabilità, devo dire che io, occupandomi di patologie finanziarie e di criminalità soprattutto. Sì, tu hai un'immagine un po' distorta, diciamo, di tutto. Ho forse un'immagine un po' distorta di tutto, però devo dire che lo scudo fiscale, proprio lo scudo fiscale, ha fatto emergere parecchie situazioni in cui un cliente voleva scudare e poi si è ritrovato che i soldi non ce li aveva più perché il suo consulente svizzero li aveva persi. Ce l'hanno raccontato, l'avvocato Vedana se lo ricorderà, anche a Salva Danaio, appunto. Ecco, questo è molto più frequente ed è accaduto molto più di frequente di quanto non si pensi. Però quello che io dico è che c'era venuto in mente anche l'altra volta quando un ascoltatore ci ha raccontato una cosa del genere, che mai, perché lui ci aveva raccontato forse una situazione un po' diversa, che non si era accorto che questo consulente finanziario al quale aveva affidato un po' del suo risparmio gli aveva aperto delle attività in Svizzera che poi erano fallite, adesso che proprio una persona non si accorga dell'apertura di una, come dire, di una situazione di questo tipo. Ci siamo. Insomma, state attenti, state in campana. Antonella dalla provincia di Ascoli Piceno, buongiorno. Ecco, buongiorno. Ah, ecco, tra l'altro, eccolo là, infatti, questo era proprio un caso. Non mi ero accorta dell'anticipo della domanda. È uno di quei casi in cui, grazie per avermi richiamato, volevo porre questa domanda proprio al dottor Ricci perché la stavo ascoltando. E niente, appunto, in merito a, io ho fatto legalmente tramite una banca italiana, ho trasferito una somma che poi avevo investito in buoni fruttiferi alle poste di circa 40.000 euro, di cui 10.000 poi li ho ritirati nel corso di alcuni anni. E in questa banca Nadro Svizzera e quant'altro, quindi mi sono fidata della trafila legale tramite banca e ho inviato questi soldi perché mi avevano proposto un interesse superiore, molto superiore, diciamo il doppio del 10-12% su questo investimento, che erano poi era un investimento quindi sui mattoni, quindi era sicuro. E il mio consulente in Svizzera, pare, di questa banca, ha perso tutto praticamente e di conseguenza adesso siamo in tribunale, nello specifico di Sulmona, con relative denunce di tutti. Certo, Antonella, io la ringrazio, purtroppo devo chiuderla. Ci scriva se vuole il dettaglio del suo caso, che magari con Stefano Eli, con l'avvocato Vedana, lo approfondiremo, magari Stefano lo utilizzerà anche per approfondirlo sulle pagine di Plus 24. Ha evocato però il dottor Ricci, la nostra ascoltatrice. Dottor Ricci, un minuto di tempo le concedo per chiudere la nostra trasmissione con un commento anche su questi casi che sono, diciamo, che l'ennesima deriva. È particolarmente imprudente perché pensare che un investimento in Svizzera soprattutto possa dare un rendimento del 12% per quanto legata al mattone ed essere estremamente fiduciosi. Il 12% è quello che danno alcuni soggetti che raccolgono denaro e poi non lo restituiscono. Ecco, oppure insomma paesi emergenti che sono molto lontani da noi, ma che emergenti. Ecco, neanche, infatti. La situazione da disperati. Esatto, l'Ungheria e la Grecia in questo momento. Però abbiamo terminato, 10 secondi, avvocato Vedana, su queste situazioni. Beh, prestare sempre attenzione, il rendimento è un elemento importante. Se il rendimento è troppo superiore rispetto alla media, è evidente che gli occhi devono essere ben aperti. Anch'io potrei citare tante altre situazioni che mi sono capitate. L'avvertimento, ecco, è parlarne col proprio almeno commercialista di fiducia. Per cui se arriva che si presenta un consulente dal nulla e dice: guarda, proteggi il tuo risparmio, portali in Svizzera, ti do il 15%, sappiate che dietro c'è, ecco, un truffatore. Abbiamo scoperto un'altra deriva del fenomeno di questa mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. Riascoltate se volete la trasmissione su Radio 24, sul sito ma anche su Facebook. A tutti, buona giornata.